7:46 minuti e 21 secondi di questo venerdì 7 giugno di weekend, non solo vigilia di weekend, anzi volevo dire vigilia di diversi appuntamenti. Arriva una vignetta da Nicola, grazie Nicola, te l'ho già rubata. Allora, c'è Biden che per le celebrazioni del D-Day sta guardando verso il mare, vicino a lui Zelensky che sta guardando verso la terraferma. Biden che sottovoce gli dice: voltati deficiente, i nostri sono dall'altra parte. E in effetti, con un'amara ironia, grazie Nicola, intanto ho già rubato questa vignetta ovviamente. Ma andiamo in scena, questa era la chiusura per quanto riguarda le notizie nello spazio iniziale del Breakfast Club. Allora, ritorna Teatro dei Mignoli, che seguiamo, come ritorna l'estate ai 300 Scalini. 300 Scalini è una sede veramente molto molto bella, è a Parco San Pellegrino, in via di Casaglia 45, quindi a due passi dal centro, nella nostra città, in Saragozza. È una località, per così dire, perché non mi piace il termine location, quindi una sede, per meglio dire, veramente molto suggestiva e pittoresca, e anche ovviamente ne è di contenuti. E nell'ambito di Bologna Estate 2024, che sapete, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna, per cui ai 300 Scalini, la curatela di Teatro dei Mignoli, parte una nuova edizione. Noi siamo veramente in apertura, perché 7 giugno 15 settembre comprenderà tutta l'estate. Io ne ho parlato insieme ad Anna Cesari, che ringrazio, con la direttrice artistica Deborah Vinci, insieme a Mirko Alboresi, per quanto riguarda i contenuti e una rassegna all'interno della rassegna. Sentiamo quindi a questo punto la nostra finta diretta prima della conferenza stampa. Iniziamo come di consueto questa finta diretta per Radio Città Fujiko. William Piana, che si trova in prossimità di un'estate ai 300 Scalini, se mai arriverà questa estate, l'aspettiamo con ansia. Da giugno a settembre appuntamenti pienissimi per una sede molto suggestiva. Intanto cominciamo con Deborah di Teatro dei Mignoli a chiedere a che edizione siamo arrivati. Ciao William, allora qua siamo alla nona edizione di Stagione Culturale per il decimo anno di rigenerazione dello spazio, rigenerazione a base culturale. Infatti siamo entrati nel 2014, il tempo di sistemare, a fare un po' di spazio per accogliere il pubblico e per coltivare qualcosa, e dal 2015 abbiamo cominciato, quindi voilà, eccoci alla nona. Ufficialmente l'inizio previsto per? L'inizio è previsto per il 6 giugno, che sarà solamente un'apertura intanto dei cancelli, un acclimatamento anche per il pubblico, per il ritorno in collina. Invece dal 7 giugno partiamo carichi con gli eventi, con la stagione culturale vera e propria. Posso chiedere a Mirko appunto questo filo conduttore che prende una parola d'ordine che ha a che fare anche con l'arte, perché nella prospettiva c'è il punto di fuga. Sì, è un punto di fuga positivo dalla città, per cui raggiungi la collina in mezz'ora, ti ritrovi in uno spazio più fresco con panorami stupendi, e quindi apriamo i cancelli per chi vuole un attimo fuggire nelle serate verso di noi, no? Per questi aperitivi al tramonto, spettacoli, concerti e di tutto di più. E questo festival molto interessante che è a metà giugno, che si chiama Insorti. Ci puoi dire qualcosa di più a proposito di Insorti? Sì, Insorti, diciamo, è iniziato appunto 9 anni fa. È stata un'iniziativa che in una prima fase, diciamo, era un po' di studio, per cui abbiamo accolto compagnie che principalmente facevano spettacoli in teatro. Invece dal secondo anno abbiamo dato questa formula del bando, e collegata al fatto di

figlia d'arte ma con una sua personalità, Anya Garbarek, dal disco Smiling and Waving, figlia di Jan Garbarek. Più narrazione in drum and bass, cantautorale, la struttura elettronica, con invece il padre più attento a una sorta di jazz, una figura importantissima per il jazz scandinavo. Intanto però torniamo a estate, ai 300 scalini, parola che da filo conduttore e punti di fuga. Non è solamente un aspetto legato all'arte figurativa nella prospettiva, ma per l'estate è un appuntamento di incontro, seppur vicino alla città, anzi vicinissimo alla città, che ha motivo di evasione di qualità e soprattutto con modalità variegata di appuntamento, per avere una possibilità di consultare in rete con più comodità gli svariati appuntamento www.ai300scalini.blogspot.com. Per informazioni 328 952 9444. Certo, non ve lo ricorderete mai, probabilmente più facile ricordare per comunicazioni teatrodeimignoli@gmail.com se volete scrivere per prenotare o per avere ulteriori informazioni. Allora, da Villa Spada attraverso il parco San Pellegrino, dopodiché abbiamo anche la fermata dei bus per linea 58, si salgono i famosi 300 scalini a piedi e arrivati in cima alla collina vi è questo spiazzo bellissimo con una vista molto pittoresca, l'ingresso è poco più avanti sulla sinistra. Oh, siamo stati, ma poi daremo anche altre informazioni per quanto riguarda come raggiungere questo luogo che, come vi ho detto, è dal punto di vista sia estetico che emotivo molto suggestivo. Abbiamo veramente nella nostra città tante situazioni da micro sensazione quanto mai intensa. La rassegna estate ai 300 scalini punto di fuga è realizzata con il sostegno di Settore Cultura Creatività del Comune di Bologna e in collaborazione anche con il Festival Entroterre. Esteso il programma all'inserto, sono già i magazine, no, aspettiamo, abbiamo il weekend davanti, all'interno lo stesso festival Insorti 2024. Ne abbiamo dato breve approfondimento con Mirko Alboresi, direttrice artistica di Estate ai 300 Scalini, Teatro dei Mignoli e Deborah Vinci, e concludiamo con qualche informazione ulteriore a proposito di questa realtà che porta al filo conduttore di punti di fuga. Modalità di partecipazione? Allora, ci saranno eventi a biglietto ed eventi a ingresso a offerta libera. Diciamo, Insorti è tutto quanto scandalosamente gratuito, offerta libera, è molto consigliata la prenotazione perché appunto, come raccontava bene Mirko prima, durante Insorti cerchiamo di favorire fruizioni non tradizionali, tra virgolette, quindi sfruttiamo anche la morfologia, le caratteristiche fisiche del posto. Vuol dire che non tutti gli spettacoli o le performance avranno grande spazio per il pubblico. Ci saranno alcuni spettacoli per 30-40 persone, alcuni la Patrizia Menichelli di sabato 22, itinerante per gruppi di massimo 18 persone, quindi consigliata la prenotazione via Eventbrite. Nel blog, nelle pagine social ci sono tutti i riferimenti. E i programmi anche. E anche i programmi. Bene, grazie, buona estate. Deborah Binci, Teatro dei Mignoli. Buon'estate a Mirko Alboresi per il Festival Insorti all'interno della rassegna Estate ai 300 Scalini, punti di fuga per tutta l'estate da oggi fino al 15 settembre. Parco San Pellegrino, Bologna. Con i Dining Rooms dal loro terzo disco, brano intitolato semplicemente You, poi pubblicità e si ritorna in scena a tra poco al Breakfast Club. Buona colazione!